giorni in cui passeggiavo qui con lui. Quante cose care, quanto amore da ricordare. Oh, mano per mano, ma intanto via vai. Il mondo non c'è, ci siamo noi. Come risciuti al vento, la vita con noi è il nostro momento. Di felicità, sicuri d'amarci per l'eternità. Sui libri di scuola scriviamo così: io t'amo, ti bavi, ti giuro di sì. Souvenir non mi dai, che ricordi svaniti ormai. Le speranze mie sono rimaste là, il cuore invecchiato, cambiata l'età. Prima amore dove sei? Prima amore dove sei? Senti come la vedo. E tardi ormai non resterà che ritornare alla realtà. Souvenir del tempo mio. È il momento di dirti addio. Primo amore dove sei? Primo amore dove sei? Passeggiamo il mondo, su me, giorni in cui passeggiamo.